Europa 24. E un saluto da Anna Migliorati. Ore decisive per il tanto atteso accordo sul gas tra Ucraina e Russia e dunque anche per l'Europa. I negoziati a Bruxelles sono durati fino all'alba, oggi altri incontri e questa volta potremmo essere davvero ad un passo da un'intesa. Allora andiamo subito a Bruxelles. Continuano ancora oggi le consultazioni tra la Russia, l'Ucraina e l'Unione Europea nel tentativo di trovare un accordo sulle future forniture di gas. Le ultime trattative terminate questa mattina alle 4 non hanno portato a risultati concreti. A quanto spiega la Commissione europea, qui a Bruxelles c'è un accordo preliminare che i governi coinvolti stanno ancora valutando. La Russia non vuole dare il suo benestare a un'intesa sulle prossime forniture senza che l'Europa garantisca i pagamenti ucraini. La vicenda è complicata anche da debiti arretrati accumulati da Kiev e che Mosca valuta a circa 14 miliardi di dollari. Per l'Europa la questione è cruciale. Teme interruzioni del passaggio di gas russo diretto verso l'Unione e che transita attraverso l'Ucraina. Attualmente il 15% del gas consumato in Europa passa dal paese, segnato sempre da una guerra civile strisciante. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E la bilancia commerciale dell'Unione Europea ha registrato intanto nel secondo trimestre un surplus di 32,6 miliardi di euro, pari all'1% del PIL europeo. A livello di Stati membri l'avanzo maggiore in Germania, poi Olanda e Italia. E dopo 4 mesi di stagnazione torna a crescere a ottobre il sentimento economico nell'Eurozona di 0,8 punti. Arriva a 100,7. L'indicatore torna così leggermente al di sopra della sua media di lungo periodo. Atteso l'accordo sul gas, ieri è arrivato invece un altro accordo, quello per il partenariato. Pronti i progetti da presentare all'Europa, ha detto il ministro dell'economia italiano Padoan, ma da Bruxelles insistono. Sicilia, Calabria e Campania rischiano intanto di perdere i fondi 2007-2013. Allora torniamo anche su questo. L'Italia presenterà più di 1.000 progetti per un totale superiore ai 10 miliardi. Così oggi il ministro dell'economia Piercarlo Padoan. Dunque l'Italia presenterà alla task force composta da Commissione europea, Banca europea investimenti e Stati membri più di 1.000 progetti per un valore superiore ai 10 miliardi. Il 14 novembre l'agenda che prevede interventi per piccole e medie imprese e sud. Tante le idee, soprattutto lo svecchiamento tecnologico, tra queste banda ultralarga, in particolare nel mezzogiorno, la messa in sicurezza della rete stradale, l'efficientamento energetico degli edifici pubblici, il supporto alle piccole e medie imprese, l'alta velocità Napoli-Bari. Notizie che arrivano il giorno dopo la sottoscrizione dell'accordo tra Roma e Bruxelles per l'impiego dei fondi strutturali europei per il 2014-2020, che per l'Italia valgono circa 43 miliardi di euro. La luce verde Bruxelles, la data dopo che Roma si è impegnata a garantire la presentazione di un programma operativo, come ci racconta dalla Commissione europea Nicola De Michelis della Direzione Generale per le Politiche Regionali. C'è una novità fondamentale in questo accordo di partenariato, e cioè che noi abbiamo, d'accordo con il governo italiano peraltro, stabilito che per far partire ciascun programma le autorità che si candidano a governare queste risorse devono sottoscrivere un documento per la riforma amministrativa, essenzialmente un documento che dice: nel passato le cose non sono andate bene per 1, 2, 3, 4 motivi ed ecco come pensiamo di assicurare che le cose siano risolte. Tra l'altro questa è una cosa che abbiamo fatto perché c'è una raccomandazione all'Italia che dice: dovete mettere a posto le vostre amministrazioni per far funzionare i fondi strutturali. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Papa Francesco ha ricevuto oggi per 40 minuti intanto il presidente dell'Eurocamera, il tedesco Martin Schulz, una visita in attesa del viaggio che il pontefice farà il 25 novembre a Strasburgo, quando visiterà il Parlamento europeo e il Consiglio d'Europa. Per l'Italia una delle priorità su cui puntare è quella del turismo culturale. In questo binomio il senso di quello che sarà discusso al Consiglio dei Ministri Europei della Cultura in programma a Bruxelles sempre il prossimo 25 novembre. Le tesi del governo italiano, che oggi ospita nella Reggia Borbonica di Capodimonte a Napoli il vertice informale, una sorta di pre-consiglio dei responsabili della cultura in vista dell'incontro di novembre, sono racchiuse in un documento finale. Ha come priorità quella della richiesta di un commissario unico europeo per cultura e turismo. Noi ci fermiamo qui. Ancora una buona giornata da Anna Migliorati. L'Europa vi aspetta come sempre a Effetto Notte. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.